La vita umana non dura che un istante, si dovrebbe trascorrerla a fare ciò che piace. In questo mondo fugace come un sogno, vivere nell'affanno è follia, ma non rivelerò questo segreto del mestiere ai giovani, visto come vanno le cose oggi nel mondo, potrebbero fraintendermi. Essere preziosa. Non si teme il proprio tempo, è un problema di spazio. Non si teme il proprio tempo, è un problema di spazio. Geniali dilettanti in selvaggia parata, ragioni personali, una questione privata. Geniali dilettanti in selvaggia parata, ragioni personali, una questione privata. La facoltà di non sentire, la possibilità di non guardare, il buon senso, la logica, i fatti, le opinioni, occorre essere attenti per essere padroni di se stessi, occorre essere attenti. Cielo padano plumbeo, denso, incantato, incredulo, un canto partigiano al comandante diavolo. Non temere il proprio tempo, è un problema di spazio. Non temere il proprio tempo, è un problema di spazio. Geniali dilettanti in selvaggia parata, ragioni personali, una questione privata.